Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, dove ci eravamo lasciati, e da lì riprendiamo per forza, perché fummo facili profeti venerdì nel dire che la crisi greca era tutt'altro che risolta, nonostante i recuperi di borsa, e oggi ci risiamo non tanto sulla borsa. Dico subito che oltre a Parigi e Francoforte, le altre borse, mi riferisco a Londra, perde 1,5 punti, Milano 1,1, non è, diciamo, una situazione drammatica. Parigi perde il 2%, sono arrivate a perdere il 4% le borse, la borsa tedesca, che perde adesso il 2,70%. Però la situazione in Grecia si è ulteriormente complicata, perché nel fine settimana, come molti di voi sanno, il governo greco ha fatto sapere di non avere raggiunto gli obiettivi promessi alla Troica, cioè in sostanza alla Banca Centrale Europea, alla Commissione Europea e anche al Fondo Monetario Internazionale, e le prospettive sono anche in peggioramento, nel senso che la Grecia chiuderà il 2011 in recessione, ma chiuderà anche il 2012 in recessione. C'è già la stima, meno 2,5%, praticamente sarà il quinto anno, se non ricordo, quarto anno consecutivo di recessione, dal 2009, 2010, 2011, e quindi sarà anche il 2012. Il governo greco ha approvato il taglio di 30.000 dipendenti statali, però gli obiettivi di bilancio greci non saranno raggiunti né nel 2011 né nel 2012. Questa è la prima notizia. L'altra notizia riguarda, e ne parleremo, la Fiat che esce dall'anno prossimo da Confindustria. C'è anche la posizione di Confindustria, l'avete ascoltata anche nel GR. Poi alle 18 parleremo di nuovo di quote latte. Scusate, ma sapete che siamo un po' duri di comprendonio. Avremo un allevatore che praticamente per mettersi in regola poi ha dovuto quasi chiudere, comunque ha pagato lungo tutta la sua vita di allevatore le quote latte, e invece avremo un allevatore nonché senatore della Lega che non le paga, che è leader anche tra quelli che sono per non pagare le quote, multato con altre storie. Ci spiegherà le ragioni di chi difende. A noi risulta che siano 660, lui dice quasi 6.000, comunque, che difende una minoranza rispetto ai 31.000 allevatori corretti. Ripeto, la domanda non è del perché la Lega difenda questa posizione, ma perché un partito rinuncia a prendere 31.000 voti per difendere delle persone che sono, da questo punto di vista, completamente illegali. Cioè, le quote latte, l'Italia le ha già, le multe sulle quote latte l'Italia le ha già pagate, 3,5 miliardi, ma anche 1,5 miliardi in questi 10 anni, 3,5 miliardi. Deve poi l'Italia rivalersi sugli allevatori. Ecco, non c'è modo di riuscire a fargliele pagare. E questo non solo è una concorrenza sleale nei confronti dei 31.000 onesti, ma è anche un danno economico per il paese, perché ricordo che 3,5 miliardi sono l'equivalente di quanto vale un punto percentuale di IVA, cioè dal 20 al 21% in un anno, quasi. Ancora, per quello che riguarda la borsa, ho già detto, oggi non sono solo le banche ma soprattutto Fiat a perdere, meno 5,21 su Fiat Industrial, quindi camion e trattori, meno 3,30 su Fiat, e ancora Exor perde l'1,90%. Alle 18 usciranno i dati sulle matricolazioni auto, vedremo se dopo mesi in cui Fiat cala più del mercato o cresce meno del mercato, vi sarà qualche buona notizia sul fronte dei modelli, perché da più parti si fa notare che Sergio Marchionne su questo è stato molto silenzioso in questo periodo. Sì, per carità, la nuova Panda, però la Volkswagen ha annunciato un piano molto forte di investimenti nelle auto di piccola cilindrata. Ecco, vorremmo capire se la Fiat, al di là delle relazioni industriali importantissime e quindi i rapporti sindacali interni, Pomigliano, ma non solo, Arese e quant'altro, fa anche oltre che modelli di relazioni industriali, fa anche modelli e ha in progetto modelli di auto. 349-238-6666 per gli SMS, dicevo. Partiamo allora subito con le notizie in breve. A oro in leggero rialzo dello 0,8% a 1636 dollari, petrolio in calo invece a 77 dollari al barile, e arrivano altri ribassi sulla benzina. Scendono Eni, IP, Shell e Tamoil. Il prezzo medio praticato va da 1,627 euro al litro a 1,636 euro rispettivamente Eni e Tamoil, in ologo a 1,520 euro. Scusate, l'indice americano, l'indice ISM che misura l'andamento del settore manifatturiero è salito a 51 punti. 51 punti sono importanti perché i 50 punti di questo indice sono lo spartiacque tra recessione economica e invece crescita economica. Di pochissimo non siamo sotto i 50 punti, ma 51 punti, punto 6, per essere corretti. E poi la vicenda degli indignados, che in realtà si dovrebbero chiamare in un altro modo, perché gli indignados nacquero a Madrid, ma insomma i manifestanti che stanno a New York manifestando contro Wall Street, 700 persone fermate, avete letto sui giornali, il ponte di Brooklyn occupato. Oggi il filosofo e politologo Noam Chomsky, anche grande linguista, li difende. Ma ci sono anche altre notizie interessanti sempre sul fronte dell'opinione pubblica americana e della rabbia che sta montando contro Wall Street. Perché martedì scorso 700 piloti, membri dell'Airlines Pilots Association, quindi l'associazione dei piloti, hanno manifestato anche loro fuori dalla sede della borsa, chiedevano aumenti salariali. Mercoledì sera i conduttori dei treni e autobus di New York hanno votato alla unanimità per prendere parte alla protesta, e l'organizzazione, che rappresenta comunque 70.000 addetti alla manutenzione nonché agenti di sicurezza del sistema di trasporto pubblico, sta organizzando una manifestazione per il 12 ottobre per solidarizzare con gli indignados. La manifestazione si chiamerà Occupy Wall Street. Anche qui è brutto dire, l'avevamo detto, però è da 2 anni che facciamo notare che non vi è stata riforma seria, severa, dura della finanza americana da parte di Barack Obama. La timidezza di Timothy Geithner, molto bravo il ministro dell'economia americano, molto bravo quando viene in Europa a spiegarci quello che dobbiamo fare, molto meno bravo a fare riforme a casa sua, forse perché viene da quel mondo e probabilmente ci tornerà in quel mondo. E era inevitabile che prima o poi, visto il costo che sta pagando l'America per il crack finanziario generato dai geni della finanza di Wall Street, disoccupazione ai massimi, era inevitabile che questo accadesse. Faccio notare, con un pizzico di populismo, che per carità va bene arrestare 700 persone che bloccavano il ponte di Brooklyn, ci mancherebbe, arresti a Wall Street per quello che è successo col crack di Lehman e anche tutte le altre vicende annesse e connesse non se ne sono visti, eh? Altre notizie in breve. L'agenzia di rating Fitch ha rivisto a ribasso la crescita globale nel 2011, ma arriva tardi, l'hanno già fatto praticamente tutti. Standard & Poor's invece ha confermato il voto AAA, il massimo, alla Gran Bretagna sul suo debito. E in Gran Bretagna arriva una notizia che farà un po' rosicare qui in Italia, perché è arrivato lo storico sorpasso: le giovani donne inglesi guadagnano più dei loro coetanei maschi. Nella fascia tra i 22 e i 29 anni le lavoratrici britanniche prendono in media poco più di 10 sterline l'ora, contro poco meno di 10 sterline l'ora messi in tasca dai loro coetanei uomini. Anche in Gran Bretagna invece le donne continuano a guadagnare sensibilmente di meno, 12 sterline l'ora contro le 14 sterline l'ora dei coetanei maschi, nella parte più anziana, chiamiamola così, più matura della forza lavoro, dai 40, tra i 40 e i 50 anni. Anziana eccessiva, matura, ecco, dai. Una notizia in breve sull'Italia, invece, come va il nostro spread, ossia la differenza tra quanto costa a noi indebitarci e quanto costa la Germania, il termometro principale per capire il rischio paese Italia, è tornato a crescere oggi a 380 punti, un livello sempre molto alto, un livello precedente alla manovra finanziaria. E secondo alcune fonti europee, oggi la Banca Centrale Europea si è rimessa a comprare debito italiano e spagnolo. Tant'è che lo spread poi è di nuovo calato a 371 punti. Lo spiego perché molti di voi ce lo chiedono. La Banca Centrale Europea sta comprando BOT, BTP italiani, in questo modo tenendo basso o abbassando il loro rendimento, perché altrimenti noi dovremmo aumentare e non di poco il nostro rendimento per trovare dei compratori. Se te li compra la Banca Centrale Europea e te li compra a un tasso più basso, è chiaro che ha un effetto calmiere, un effetto in qualche modo anestetizzante rispetto a quello che sarebbe il rendimento che dovremmo offrire. È chiaro che però non si può andare avanti con la Banca Centrale Europea che si sostituisce ai privati e ai fondi nel comprare il nostro debito, Sì, molti di voi mi fanno notare che in tutto il mondo, è vero, in Spagna, in Grecia, ci sono stati casi, in Gran Bretagna, adesso anche negli Stati Uniti, degli indignados, di persone che manifestano contro questa situazione, tranne che in Italia. E vuol dire che da noi le cose vanno meglio che altrove. 349-238-6666 per i vostri sms. Vorrei partire prima con la Grecia, se siamo pronti, e poi eventualmente con... Ah no, mi fanno segno che c'è già l'economista Giuseppe Berta. Perfetto, partiamo con la Fiat e poi la Grecia. Allora, innanzitutto l'addio ufficiale a Confindustria, l'ha chiarito di nuovo oggi Sergio Marchion, dicendo insomma il nostro è un addio ufficiale dal 1 gennaio 2012, non facciamo entrate e uscite. E poi a margine della presentazione a Mirafiori di un SUV marchio Jeep, l'installazione degli impianti produttivi inizierà nel 2012, il primo prodotto nella seconda metà del 2013. Siamo un po' lenti, Marchion. Sentiamo Marchion. Credo che la lettera sia stata abbastanza chiara, è stata una decisione che è stata presa su proprio meriti tecnici di quello che stava accadendo. Abbiamo avuto questo provvedimento di legge che è stato approvato dal Parlamento, che ovviamente ci ha dato la certezza di poter applicare i contratti e gli accordi che sono stati firmati dai sindacati, dai lavoratori. Volevamo la certezza di poter andare avanti, non potevamo avere sfumature prese da qualcuno sul significato del provvedimento o restrizioni sulla capacità del gruppo di applicare le regole. L'addio è ufficiale, dal 1 gennaio 2012 siamo fuori, quindi io non faccio entrate e uscite. La cosa importante per il momento è che abbiamo identificato Mirafiori come l'unico polo industriale in cui produrre la vettura per la Jeep. Se la domanda dovesse andare oltre i limiti, poi vedere dove altro, in quale altra parte del mondo industrializzarla. La cosa importante è che l'impegno iniziale è stato fatto per qui, quindi l'abbiamo rivisto in dettaglio, abbiamo trovato lo spazio per Mirafiori in un contesto di utilizzo di stabilimenti a livello internazionale, e questo è un passo importantissimo, che fa parte di tutto il progetto che avevamo intrapreso l'anno scorso e che lo stiamo portando avanti pezzo a pezzo. Io le posso dire una cosa, l'ho detto nel contesto della presenza del presidente Napolitano a Rimini, continuo a ribadirlo, anche nella serietà in cui si è espresso il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, nella lettera che è stata inviata all'Italia, credo, dalla Banca Europea. Allora, alcuni di voi vogliono sapere quanto fosse lo spread tra Italia e Germania prima della crisi. Era bassissimo, era 180-100 punti, ma è rimasto basso fino a giugno. Lo ripetiamo ogni volta, lo spread, quindi l'aumento del rischio misurato con lo spread per il debito italiano, parte da metà giugno, fine giugno, quando il governo viene battuto alle amministrative e al referendum. Da lì inizia a salire, poi con la manovra finanziaria di luglio, quella che è poi stata bocciata da tutti, schizza e superiamo la Spagna, che fino a quel momento era ampiamente sopra noi quanto a rischio misurato dagli spread. Allora, diciamo della Fiat, avete sentito Marchione che poi ha aggiunto: il mio interesse per la posizione politica di Confindustria è pari a zero. Noi la Confindustria politica ha zero interesse, ha aggiunto. E sui SUV Alfa, ossia se fare o non fare il SUV Alfa Romeo e se fare o non farlo Mirafiori, non abbiamo ancora deciso. Anche qui auspichiamo che decida, perché insomma è un po' che questa cosa va avanti ed è fondamentale per i dipendenti di Mirafiori. Una buona notizia però c'è, che la Fiat produrrà all'inizio del 2013 nello stabilimento di Prato la Serra, provincia di Avellino, un nuovo motore benzina turbo a iniezione diretta per l'Alfa Romeo. La posizione di Confindustria con l'uscita della Fiat, storica, è inutile girarci attorno, insomma la Fiat una volta, fino agli anni 60-70, era praticamente buona parte della Confindustria, Gianni Agnelli ne fu anche presidente, adesso pesa molto meno, in termini di addetti rappresenta lo 0,8% dell'intero sistema Confindustria, in termini di contributi, cioè di quote che paga, rappresenta invece l'1% dell'intero sistema e vale a dire un contributo di 5 milioni di euro l'anno. Confindustria fa anche notare che nei primi 9 mesi del 2011 gli associati a Confindustria sono aumentati del 2%, 2096 aziende in più. E insomma, il motivo, da quello che si è capito, sembra essere la parte, diciamo, di relazioni industriali. Marchionne è, come avete sentito, a favore dell'articolo 8 previsto nella legge finanziaria, quello che permette al contratto aziendale di superare sia il contratto nazionale sia la legge nazionale. Confindustria fa sapere che gli accordi invece firmati con i sindacati, quelli del 28 giugno, non vanno in contrasto con l'articolo 8 della manovra finanziaria, e che comunque l'applicazione dell'accordo del 28 giugno sarà garantita. Il ministro Sacconi ha confermato che il numero uno della Fiat, Sergio Marchionne, vuole applicare fino in fondo l'articolo 8, e mi rendo conto che sono temi anche un po' tecnici, ma in sostanza l'articolo 28... scusatemi, gli accordi del 28 giugno sono accordi che prevedono che la contrattazione aziendale superi quella nazionale, ma anche che se un accordo è firmato dalla maggioranza dei sindacati rappresentativi in un'azienda valga per tutti, che non vi possono essere scioperi contro l'accordo firmato e altre cose. Invece l'articolo 8 presente nella legge finanziaria va oltre, dice che l'accordo aziendale può avere più forza, può anche andare oltre, essere diverso rispetto sia all'accordo nazionale sia in alcuni casi anche la legge nazionale, nel caso specifico sull'articolo 18 e sulla possibilità di licenziamenti. No, vedo che, allora, una battuta non male, dice che in Italia ci sono invece che gli indignados, i rassegnados, vabbè, però non si va avanti così. E a chi dice adesso avete cambiato idea su Marchionne, no, ritengo e confermo che Marchionne avesse ragione nel porre il tema delle relazioni industriali, ossia un gruppo multinazionale deve poter investire in Italia, se no ha anche il diritto di dire vado a investire dove me lo consentono. Ho solo detto che dopo che abbiamo parlato per oltre un anno dei rapporti con i sindacati, delle relazioni industriali, sarebbe il caso di vedere anche i modelli, perché da mesi che la Fiat, sia come gruppo sia come singoli marchi, perde quote di mercato, ok? Enrico Letta sull'uscita della Fiat da Confindustria. La notizia sul fatto che la Fiat esca da Confindustria non è una buona notizia per un paese che ha bisogno di forza, di armonia, di serenità, di impegno di tutti e di coesione, quindi. Rispettiamo quella decisione, sarà frutto naturalmente di valutazioni molto approfondite. Ribadiamo il fatto che l'accordo del 28 giugno tra Confindustria e sindacati è stato un fatto molto importante, è stato un elemento di avanzamento per il Paese, ha sbagliato il governo a sottovalutarlo, anzi a penalizzare la situazione, e quindi noi vogliamo ripartire dall'accordo tra governo e parti sociali. Rispetto a questo accordo crediamo che l'uscita di Fiat da Confindustria non rappresenti una buona notizia. Perché Fiat esce da Confindustria anche per questi accordi di fine giugno, perché vuole applicare l'articolo 8 che va oltre, ripeto, gli accordi presi da Confindustria e sindacati, Il segretario della FIOM CGIL Maurizio Landini dice è il segnale chiaro del disimpegno della Fiat dal paese. Più sospesi i giudizi di Angeletti, quindi Will, è una questione interna della Confindustria, dice Angeletti, mentre Bonanni dice l'accordo del 28 giugno comunque non è stato depotenziato. La Fiat è libera di fare quello che vuole, ma non può dire che esce perché è stato depotenziato l'accordo del 28 giugno, perché non è vero. Bene la crisi della settembre negli Stati Uniti, praticamente il miglior andamento da settembre del 2008, bene anche la General Motors, però io vorrei tornare su Fiat e allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento chi di Fiat è da sempre, insomma, lo storico più preparato, il professor Giuseppe Berta, che insegna storia economica all'Università Bocconi di Milano. Buonasera professore. Buonasera. Allora, insomma, qui si chiude un'epoca, ma a mio avviso sarà già chiusa quando con l'operazione Fiat Chrysler Marchionne fece capire che la Fiat, insomma, non ragionava più in termini solo italiani. Però insomma, lei crede al fatto che Marchionne sia uscito dalla Confindustria solo per l'articolo, per gli accordi del 28 giugno, o l'avrebbe fatto comunque? C'è un Marchionne che vuole tenersi le mani libere e, come pensano i più maliziosi, spostare l'asse sempre di più verso gli Stati Uniti, verso Detroit? Ma la politica delle mani libere mi sembra oramai in corso di attuazione da anni. Ritengo che però un peso l'abbia avuto anche la controversia sull'articolo 8 della manovra finanziaria, nel senso che ricordiamo che la prima intenzione di uscire dalla Confindustria Marchionne l'ha manifestata proprio all'indomani dell'accordo interconfederale del 28 giugno, no? Con quella lettera in cui diceva sì, un bel accordo, però noi non ci tutela. Perché non ci tutela? Perché ovviamente l'accordo non aveva efficacia retroattiva, cioè era come se gli accordi per Pomigliano d'Arco, Mirafiori, Gugliasco non fossero stati firmati, si sarebbe dovuto rinegoziarli oppure sottoporli a una nuova procedura di convalida. Ecco, di qui l'idea di un passaggio di legge. Il passaggio di legge è saltato fuori in maniera, direi, provvidenziale quasi dal dibattito sulla manovra finanziaria. Sì, provvidenziale per la Fiat, professore. Ma prudenziale per la fine sicuramente, ma anche prudenziale perché c'è nella lettera di Trichet e Draghi quel passaggio specifico che dice che deve essere potenziata la contrattazione aziendale rispetto alla contrattazione nazionale perché è più capace di accrescere produttività e competitività delle imprese. Allora quel passaggio c'è, obiettivamente l'abbiamo letto sulla lettera riprodotta qualche giorno fa. E Marchionne a questo punto si è sentito tutelato. Vedere che il 21 settembre Confindustria invece subordinava l'articolo 8 a un'intesa con i sindacati, in cui c'era anche la CGIL, beh, questo probabilmente deve avergli dato parecchio fastidio e, diciamo, l'ha convinto in una decisione che era già stata presa, perché la decisione... No, ecco, guardi, professore, lei conosce bene il mondo della Fiat, tra l'altro è editorialista sulla alla Stampa di Torino, lei ha scritto un libro importante come La Fiat dopo la Fiat. Allora, va benissimo il tema delle relazioni industriali, che interessa molto di più Confindustria e Fiat che non, diciamo, il grande pubblico, però lei ha chiarito molto bene, secondo Marchionne, l'accordo che la Confindustria ha firmato con i sindacati non tutelava la Fiat sugli accordi pregressi, aziendali pregressi, anche se l'accordo del 28 giugno è un accordo che pone moltissimo l'accento sulla contrattazione aziendale, dice che va a superare quella nazionale. Certo, però non si estende la sua efficacia agli accordi stipulati in precedenza. In precedenza. Era quello. E allora Marchionne dice: io mi sento più tutelato dall'articolo 8. Domanda: siccome l'articolo 8 comunque è legge, no? Perché uscire da Confindustria? Bastava applicare l'articolo 8, cioè perché devi uscire da Confindustria? Sembra quasi una reazione, diciamo, politica. È una reazione diciamo di insofferenza, come è scritto chiaramente nella lettera rivolta a Emma Marcegaglia oggi, ma è anche il fatto che, attenzione, con i sindacati il 21 settembre si è detto che rispetto alla legge ci deve essere l'autonomia contrattuale delle parti, perciò devono essere i sindacati e la Confindustria a decidere. Si sono in qualche misura hanno fatto uno schermo nei confronti della legge. Questo ha probabilmente esasperato una impazienza a Torino che c'era già prima, anche perché vengo alla risposta più generale alla questione che lei ha sollevato, anche perché diciamo la verità, Marchionne fa sempre, evoca sempre un'Italia che è da cambiare, che non va. In quest'Italia da cambiare, che non va, c'è sicuramente dal suo punto di vista anche la Confindustria, cioè fa parte di questo sistema sindacale che non corrisponde a sufficienza alle attese delle imprese e che lui continuamente... ecco, denuncia. Su questo allora, però, visto che oggi Marchionne ha detto a me la Confindustria, il ruolo politico di Confindustria non interessa assolutamente, interesse zero, allora però qui dobbiamo capirci, gli interessa la Confindustria e ritiene che vada cambiato il modo delle relazioni industriali e allora fai una battaglia interna alla Confindustria, non ti interessa quello che fa Confindustria, diciamo, e le relazioni industriali che pone in essere, anche perché io ricordo che la Confindustria rappresenta anche centinaia, nel caso di Marchionne, di piccoli o medi imprenditori, certo, del settore meccanico. Allora non tutti possono dire come fa Marchionne: se non vi va bene l'accordo vado a produrre in Polonia, certo. Cioè molti imprenditori devono dire: io devo produrre in Italia perché non posso delocalizzare lo stabilimento, e allora avere i picchetti, avere la tensione, certo, sociale, perché voglio dire, il discorso di Marchionne è bello perché se lo può permettere, non c'è dubbio, è una grande impresa che ha la possibilità di farsi la contrattazione in casa, c'è chi deve trovare gli altri sistemi. Però da questo punto di vista mi ha colpito un'altra cosa, che certo Marchionne e la Fiat, le due Fiat escono dalla Confindustria, ma se lei ha visto bene non escono dal sistema associativo imprenditoriale nella loro totalità, cioè un piede nelle associazioni territoriali voglio continuare a mantenerlo, la Fiat e Marchionne. Allora professore, dopo il metro e la pubblicità, siccome arriviamo anche rapidamente alla borsa, però vorrei capire da lei un'ultima risposta, i modelli, perché è un anno e mezzo, io ho sempre riconosciuto anche a Marchionne il ruolo e la capacità di aver posto il tema di come si fanno relazioni industriali in maniera più moderna o comunque nuova rispetto al contratto nazionale, di aver dato un'accelerazione. Però la Fiat, fino a prova contraria, fa auto. E non qui... fa relazioni sindacali. Ecco, non fa relazioni sindacali, ok? Allora, Marchionne da un giorno dice che lui non fa politica, però ha, ripeto, anche in maniera innegabile, innovato moltissimo nelle relazioni tra sindacati, ha usato il braccio di ferro, ha forzato la mano, ognuno la pensi come vuole. E quindi, secondo me, ha fatto politica anche lui, è inutile che si nasconda dietro uno schermo come questo. Certo. Che, giusto o sbagliata che sia, l'ha fatta anche lui. Però poi sui modelli qua ancora ci dice che non sa se il SUV lo fa ad Arese, a Mirafiori mi scusi, oppure no, e la Fiat continua a perdere quota di mercato, cioè non vorrei che ci fosse anche una polemica un po' pretestuosa sull'Italia. Certo. Dopo il metro la risposta, grazie. ...17.38 minuti, la borsa ha chiuso con un calo dell'1.31% a Milano e devo dire meglio della giornata anche Parigi, meno 1.85%, Francoforte meno 2.30%, ci arriviamo tra un attimo. Allora, professor Berta, a parte il fatto che dico agli ascoltatori, come vedete, come spesso viene in questo programma, direi quasi sempre, gli ospiti sono interlocutori, quindi la pensiamo in maniera diversa, non mi piacciono le interviste in cui tutti si danno ragione, ma dicevo, alla fine, a forza di parlare di relazioni industriali, adesso Marchionne ha ottenuto quello che voleva, perché se esce da Confindustria applica l'articolo 8 e va a trattare direttamente col governo, parliamoci chiaro, arriveranno i modelli auto, perché non vorrei che tutto questo fosse una grande scusa per dire ma in Italia non riusciamo a produrre, ma in Italia di qua, è in Italia di là. Ma io spero, diciamo, che adesso spero, passi la parte attuativa, perché se mi sembrerebbe una cosa estremamente dispendiosa aver tenuto insieme questo enorme confronto che va avanti, come diceva lei, dal maggio-giugno dello scorso anno, no? È cominciato a Pomigliano d'Arco, è proseguito a Mirafiori nell'inverno, è andato avanti con lo stabilimento dove si sta facendo l'investimento Fiat e Gugliasco a Maserati, c'è da sperare che adesso si arrivi alla prova del fuoco. La prova del fuoco è no, anche perché noi abbiamo appoggiato, lo dico senza nessun problema, quando Marchionne pose il tema di un paese che deve aggiornare il modo di fare le azioni industriali, che se uno fa un investimento non può rischiare che un sindacato, magari pur con la minoranza, gli blocchi tutto. Era il caso della FIOM, che diceva no a tutto. Sì, sì, sì. Abbiamo detto, attenzione, in un mondo globalizzato, giustamente, se lui ha decine di miliardi da investire, deve decidere dove investire, non lo si può obbligare a investire in Italia se anche la Polonia, la Turchia e il Brasile come, sì, come orizzonte. Però adesso mi sembra che abbia ottenuto tutto quello che voleva. Adesso, cioè, infatti bisogna vedere se le cose decollano. Allora, le prove che noi vedremo nei prossimi mesi sono il varo dello stabilimento di Pomigliano d'Arco nella nuova forma. Da novembre incomincia a uscire la nuova Panda. Si vedrà anche se la nuova Panda avrà una buona accoglienza dal mercato. Per quanto riguarda Torino, secondo me il SUV Jeep non risolve i problemi. Io l'ho già detto, non penso che sia il modello risolutivo dei problemi. Infatti, a parte che i tempi sono dilatati, e si parla del 2013, sì, appunto, ma per tenere in piedi con prospettive importanti non solo l'impianto di Mirafiori ma il sistema dell'auto che gira attorno a Mirafiori occorrono piattaforme diversificate, e questo è l'altro discorso ancora da fare, altrimenti se si affida a un modello soltanto, se si affida a un paio di modelli, è difficile che un comprensorio dell'auto articolato come quello di Torino possa... Cioè io non vorrei, dopo aver dato ragione a Marchionne più volte, che tutta questa querela fosse per dire alla fine, signori, vendiamo poco in Italia e dobbiamo ridurre ulteriormente gli stabilimenti dipendenti, perché il patto di Fabbrica Italia non è questo, No, infatti, ricordo. Però Fabbrica Italia è rimasta, devo dire, finora un'enunciazione che ha riguardato al momento attuale tre stabilimenti, che sono Pomigliano d'Arco sicuramente, Grugliasco, dove si sta facendo la riorganizzazione per la lavorazione del nuovo Maserati, e adesso dovrebbe partire Mirafiori. Di tre stabilimenti Mirafiori è il più grande e il più in ritardo, ecco, questo va detto chiaramente. E poi per quanto riguarda la risoluzione che poneva lei, io devo dire, rilevo uno squilibrio, l'ho detto più volte e lo ribadisco, che la Fiat Chrysler, dicevo meglio, ha concentrato quest'anno 2011 tutti i suoi sforzi sul mercato americano. Con risultati buoni, perché abbiamo visto... Ecco, però appunto la crescita della quota di mercato, del recupero delle vendite di Chrysler, di marchi Chrysler in America, non è controbilanciato qui da... anzi, è sbilanciato dalla perdita di quote dei marchi Fiat. Ecco. Questa è una condizione anomala a cui bisogna mettere mano. Devo dire, a me sembra, se posso, questa è la constatazione, che Marchionne non abbia ancora trovato il giusto assetto gestionale, perché il fatto stesso che abbia costituito il nuovo organismo direttivo di Fiat Chrysler, che opera già come un'unica impresa, come se la fusione fosse già fatta, cioè il GEC, Group Executive Council, ha rimosso i responsabili dell'Europa, segno che erano lì da un anno, lo responsabile dell'Europa, segno che non c'è ancora un'equipa manageriale adeguata al compito, e che è un tentativo un po' per prova ed errore. Ecco, io non so se questo dipenda anche dalla capacità di investimento, su questo non si può dire molto. Guarda, io chiarisco un paio di cose agli ascoltatori. Uno, a me che la Fiat non sia in Confindustria non me ne può fregare nemmeno dal punto di vista personale. Non è che siccome la Confindustria è l'editore di questa radio, chi entra, chi esce, è una notizia, perché è una notizia storica. Cioè, la Confindustria si identificò per alcuni decenni con la Fiat, e non solo, con l'Olivetti, con la Pirelli, ma insomma è una notizia storica. Io di notizie mi occupo. 6-5 milioni che versa la Fiat in Confindustria, la Confindustria li raccoglie da altri imprenditori, a me, ripeto, c'è il massimo disinteresse per questo, in senso neutro. Il professor Berta, essendo uno storico anche della Fiat, non è un antagonista, non viene dalla FIOM, per cui mi sembra che nessuno ce l'ha con Marchionne, però si dice anche, benissimo, adesso che con l'uscita della Confindustria sei libero, hai le mani completamente libere, non puoi anche non rispettare gli accordi tra Confindustria e sindacati. Vorrei capire perché ad Arese ancora a Mirafiori si prende tempo, e sul SUV perché si prende tempo ancora col motore dal 2013, la Panda, cioè i modelli, poi aspettiamo un quarto d'ora, vediamo i dati auto e vediamo se la Fiat ha ancora una prospettiva italiana oppure se tutto il gruppo Fiat si chiama Chrysler in questo momento. Questa è la vera questione, anche perché Marchionne, il giorno prima che intervenisse il downgrading di Moody's, aveva detto che l'obiettivo di 6 milioni di auto per il traguardo del 2014 è confermato. Oggi noi siamo a circa 4 milioni di auto. Dunque qui resta un punto interrogativo. Chiaro. Grazie professor Berta, grazie anche per l'obiettività e quindi al professor Giuseppe Berta che insegna storia dell'economia all'Università Bocconi di Milano, editorialista della Stampa e autore di un libro che non so se qualcuno sia ancora in commercio, comunque si chiamava La Fiat dopo la Fiat, storia di una crisi, casa editrice Mondadori, molto carino. Traffico. Dice a 7.48 minuti, allora Ciao Condi, la Radio Corriere Sole 24 Ore, tra un attimo parliamo di Grecia con Vittorio D'Arold, buonasera. Buonasera a voi. Allora, buonasera Vittorio, buonasera Ceo. Fiat, vabbè, in attesa sulle immatricolazioni alle 18, devo dire che perde però tanto anche Fiat Industrial, che nulla c'entra, cioè camion e trattori, meno 5,70, perde più di Fiat Auto, meno 3,22, Exol meno 2,36%, Fiat sì. Industrial. È una giornata nera per l'auto in Italia, ma soprattutto in Europa, dove l'indice di settore ha perso il 3,8%, in questo caso pesano sì, diciamo sulla Fiat Spala auto, le preoccupazioni sul dato delle immatricolazioni, il nervosismo, ma anche, e questo pesa sull'industrial, le preoccupazioni per la ripresa economica, per l'andamento dell'economia, essendo questi settori molto ciclici, il timore degli operatori che poi la domanda crolli e quindi le vendite scendono più di quanto sono scese fino adesso. Ancora per quello che riguarda i titoli, Popolare di Milano perde il 6%, però faccio notare che ha guadagnato il 60% dopo l'inizio delle voci su Arpe, Bonomi, Ponzellini, la convocazione della Banca d'Italia, quindi secondo me ci sta tutta. Fondiaria SAI invece oggi è il miglior titolo, più 8,99%, più 9%. Eh sì, qui è una vera e propria sorpresa, piccola curiosità, finalmente, per modo di dire, insomma, è tornata sopra i valori dall'aumento di capitale, è stata 1,5, è andata a 1,72, chissà che l'ingresso di Unicredit nel capitale non porti con le modifiche sulla governance anche diciamo un miglioramento della redditività, oppure chissà, magari c'è anche qualcuno che scommette su non una scalata ma un altro ingresso importante nel capitale della compagnia. Al momento comunque insomma È chiaro il dato. Bene, Azimut più 3,16, Ansaldo STS più 2,70%, non mi dire che sono tornate le voci che Finmeccanica vorrebbe vendere la sua controllata che fa segnaletica ferroviaria soprattutto. Insomma, lì più che voce c'è stata anche una diciamo prima voce e poi anche una missione ufficiale da parte della società che c'è questa vendita. Più che altro in borsa oggi si guardava soprattutto al fatto che queste voci possano assumere una consistenza con delle offerte formali e quindi con la prospettiva insomma di una cessione vera e propria. Ancora Parmat più 1,45, Mediolanum più 1,31%, Edison, continui sviluppi su Edison, com'è andata oggi? Edison oggi ha perso parecchio, è tornata addirittura, ha perso il 5,4%, è tornata sotto quota 0,9 euro. Segnava che però venerdì aveva toccato i massimi da un anno, in questo caso la scommessa è su un'OPA di EDF che potrebbe far seguito diciamo al riassetto, perché EDF non si sblocca, la situazione non si sblocca con gli italiani? Chiarisco, Edison è controllata sia dai francesi di EDF che da A2A, c'è un braccio di ferro in corso, il ministro Romani ha fatto capire che la trattativa non è ancora chiusa e non ci sono ancora terreni condivisi, tu dici il mercato punta di poco. Diciamo che comunque si risolve la cosa, EDF sarà sopra il 50% di Edison, comunque il fatto che venga portata in trasparenza la sua quota di controllo porterà comunque a un'OPA che avverrà a un prezzo sicuramente superiore a 0,89 di oggi. Miglior titolo Gas Plus Italia più 4,15, Fusix, scusatemi, non è 4,15 perché il prezzo, ma è più 22,35%, Fusix più 11,78, Fondiaria SAI abbiamo detto, peggior titolo Archimedica meno 16, RDB meno 13, ma attenzione, molto era cresciuta la settimana scorsa, Alcatel Lucent meno 11 e Ferragamo meno 9,70%. Grazie Ceo Condina e noi torniamo con il nostro diario Greco. Insomma, è veramente una saga più che un diario, più che una tragedia. Vittorio D'Arold, insomma, abbiamo fatto tempo a festeggiare la borsa che festeggiava il fatto che la tranche di aiuti alla Grecia veniva finalmente staccata, tranche di aiuti che non serve la Grecia ad altro se non a pagare gli stipendi, 8 miliardi di euro, altrimenti non arrivano gli stipendi, che di nuovo la Grecia fa sapere che non raggiungerà gli obiettivi, che anche il 2012 sarà di recessione. Che possibilità hanno questi 30.000 statali di essere veramente licenziati? Dunque, i 30.000 in realtà poi sarebbero molti meno, perché si tratta in buona parte di prepensionamenti, naturalmente, cioè cercheranno, certo, di mandare in pensione quelli vicini all'età. Poi ci sono naturalmente quelli che invece saranno in qualche modo ricollocati, cioè spostati da zone dove, aree della pubblica amministrazione dove non servono o non fanno nulla, in aree che dovrebbero invece essere più utili. Questo quindi un è sogno una anche mobilità, da noi, diciamo, una mobilità che non siamo mai riusciti però a applicare in Italia. Però tutte queste cose sono circa 6.000 quelli che poi in realtà restano comunque in esubero. Perché? Perché la vera questione di fondo è che in Grecia ci sono circa 750.000 dipendenti pubblici su una popolazione di 11 milioni di abitanti e di 5 milioni di popolazione attiva, quindi è una enormità, ne bastano 600.000, cioè il 20% in meno. Questi, cioè, ce ne sarebbero 150.000 di troppo? Ce ne sono 150.000 che devono essere ridotti. Il dimagrimento prevede il 20% in meno entro il 2015. Come si vede, sono questioni che interessano anche noi, perché la nostra amministrazione pubblica in alcune aree effettivamente è pletorica. Sì, non abbiamo bisogno di ridurli come la Grecia, però allora, il punto però mi sembra un altro in questo momento. Il timore di molti osservatori è questo: le misure chieste alla Grecia sono così forti, anche l'idea che la Grecia possa restituire l'80% dei debiti che ha, molti dicono che è impossibile, che si rischia quell'effetto perverso, alcuni dicono che colpì l'Argentina a suo tempo, e cioè di impedire una crescita greca. Cioè, se tu continui ad andare in recessione, è chiaro che i tuoi conti peggiorano, come ha comunicato il governo greco nel fine settimana. Sì, esattamente. Cioè, il problema della Grecia è che a luglio si era fatto una stima di crescita del meno 3,5 per quest'anno, e oggi sappiamo che sarà meno 5,5, e per il 2012 di un più 6,0%. Insomma, poca roba, ma era una crescita. Invece adesso siamo a meno 2,5. Capirai. Con queste cose la disoccupazione salirà dal 15 al 16,4%. La disoccupazione giovanile è sul 32. Mm-hmm. E siamo quindi a livelli praticamente enormi. Il debito pubblico arriverà l'anno prossimo al 172% del PIL. Cioè, situazioni incredibili. Se non c'è crescita, la questione non funziona. Qual è il problema? Che qui, in questa fase, la Grecia sta tagliando, sta cercando di tagliare, ma non ha nulla dal punto di vista, diciamo così, propositivo. Oddio, ricordatemi, solo tagli e niente crescita. Questa è una cosa che ho già sentito anche da noi. Esattamente. Il vero problema è trovare delle aree, oltre al turismo e ai noli marittimi, dove ricordiamo la Grecia è prima nel mondo. Che possono esserci, ci deve essere, non so, energie alternative, il solare. Non c'è niente sulla crescita, diciamo, con uno slogan molto conosciuto anche da noi. Esattamente. Vedremo cosa succederà. Faccio notare che di fatto tecnicamente la Grecia è già fallita, perché nessuno sta più ipotizzando che possa rimborsare il suo debito al 100%. Poi vediamo se sarà l'80, il 70, c'è chi dice che bisogna arrivare al 50%. Su Marchionne chioso e chiudo, non ho citato il fatto che Marchionne sia residente in Svizzera e paghi le tasse in Svizzera, perché non c'entra niente con il ragionamento che abbiamo fatto sul futuro della Fiat, al di là dei modelli industriali, iniziasse a fare i modelli di auto. GR poi di nuovo in diretta per le quote latte con il senatore leghista splafonatore, multato, leader dei Cobas, e un allevatore fallito perché pagava le quote. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Sono arrivate nel frattempo i dati sulle immatricolazioni auto, vedono il mercato calare del 5,7% a settembre, Fiat cala un po' meno del mercato, meno 4,7%, la quota del gruppo per questo effetto sale al 29% contro il 28,5% di un anno fa, però più bassa della quota d'agosto che era 29,14%. Di Fiat, di Marchionne che esce da Confindustria, abbiamo parlato ampiamente nella prima ora del programma. Adesso vorrei tornare su un tema che stiamo cavalcando perché vogliamo capire, e mi riferisco alle quote latte, tema nato da un lato per l'intervista che ci ha rilasciato il senatore Fruscio, ossia l'ex presidente della AGEA, dell'agenzia che deve far pagare le multe, le quote latte agli allevatori che non le hanno rispettate. Secondo Fruscio, che è della Lega, lui è stato rimosso dal ministro Romano, perché in questo modo Romano ha avuto l'appoggio della Lega al Parlamento, e ricorderete come è andata a finire. Dall'altra parte, giovedì a Milano, il Tribunale di Milano ha condannato 16 allevatori produttori, tra cui Alessio Crippa, a 5 anni e mezzo di reclusione e pene tra l'altro tra un anno e 2 anni e 6 mesi. Che cosa è successo? Una truffa da 100 milioni di euro, aggirando le normative sulle quote latte. I soldi che dovevano finire all'erario, di questi soldi si sarebbero appropriati invece gli stessi allevatori, facendoli poi girare in cooperative e caseifici. Abbiamo speso in 10 anni 3 miliardi e mezzo già spesi dai contribuenti dati all'Europa per le multe delle quote latte, manca ancora 1,5 miliardi. 349-238-6666 per i vostri sms. L'Italia prima paga le multe e poi deve rifarsi, visto che sono dei contribuenti questi soldi, sugli allevatori splafonatori. A quello che non risulta sono 657 contro 31.000 allevatori che pagano regolarmente, che rispettano le quote latte, oppure che se devono produrre di più comprano le quote pagando le salate da altri allevatori. Andrea Busetto Vicari, buonasera. Buonasera. Lei che cosa fa? Cosa faceva? Adesso faccio l'agricoltore e basta. Prima? Nel senso che prima, fino alla fine dell'anno scorso, per 25 anni, e prima mia mamma e prima ancora mio nonno, facevo l'allevatore di vacche da latte e l'agricoltore. Ma per tanti motivi, uno dei quali è stato forse predominante, è stato questo, ho dovuto, adesso non ho nessun rimpianto, devo dire, dopo un anno, perché la qualità della vita era indecente, però ho molta rabbia dentro, perché sono uno di quei 31.000 o 32.000, insomma. E cioè uno che 20 anni fa, quando avevo 31 anni, per produrre di più e per aumentare la potenzialità della mia azienda, che sta in un posto difficile perché sto sulle colline di Urbino, quindi non è esattamente la Bassa Padana dove produrre latte è più facile, mi sono dovuto comprare, prima affittare, poi comprare, quote su quote su quote, per passare da 7.000 quintali di latte che producevo negli anni 80, alla fine degli anni 80, ne ho venduti, insieme all'azienda, ho venduto 22.500 quintali, cioè io ho triplicato. Quanto le è costato comprare le quote latte, comprare legalmente? È abbastanza poco, relativamente poco, perché io sto in comunità montana, e quindi lì è ancora più paradossale, perché in comunità montana nessuno ha mai pagato una lira di multa, perché le produzioni sono talmente basse e in calo, perché si compensava, diciamo. Però io ho speso circa 600 milioni di vecchie lire a metà degli anni 90, che sono un mucchio di soldi, e sono circa la metà, facendo le debite rivalutazioni con l'euro, di quello che era il mio. Mi dice quanto ha pagato però complessivamente? Circa 650 milioni di vecchie lire, mediamente tra il 91 e il 2000, che sono più o meno 600-700 mila euro di adesso. Sì, comunque ai valori di adesso, ai valori di allora 380 mila. Ho rispettato completamente la norma, che non condividevo completamente, e devo dire che la gestione della GEA nei primi anni 90, poi dei consorti che per conto della GEA facevano i controlli, è stata veramente indecorosa. La GEA è l'agenzia, lo chiarisco, la GEA è l'agenzia che deve poi andare dagli allevatori che hanno sforato le quote a farsi. C'è un ricatto della Lega. Adesso ci arriviamo. Molto forte. Allora, è quello che sostiene il senatore leghista Fruscio, poi ve lo faccio ascoltare, che era presidente della della GEA. Forse non era il presidente, forse era il commissario. Il commissario, mi scusi, ha ragione. Lui dice di essere stato rimosso dal ministro Romano in cambio del voto della Lega nella votazione. Vabbè, adesso un attimo, di sicuro un attimo. Quello è quello che sostiene Fruscio, poi ognuno ha le sue idee. Però io voglio restare al tema iniziale, cioè perché un partito che ha negli allevatori una base elettorale importante, anche perché gli allevatori sono quasi tutti tra Cremona, Brescia e il Piemonte, e quindi in una zona in cui la Lega è molto presente, rischi di perdere 31.000 voti di leghisti, di allevatori che pagano regolarmente le quote latte, quando le comprano le rispettano, per 657 che non risultano splafonatori. Onorevole Fabio Ranieri, parlamentare della Lega Nord, segretario della Commissione Agricoltura della Camera, agricoltore e anche produttore di latte e anche sforatore di quote, buonasera. Buonasera. Allora, io ho capito benissimo, ne abbiamo parlato altre volte, perché voi ritenete sbagliate le quote latte, e questo non è in discussione. Uno può ritenere sbagliata una legge, ci mancherebbe. Ritenete che l'Italia le abbia troppo basse, chi la pensa diversamente da voi ritiene che invece sono basse perché erano già molto in nero, le produzioni di latte avevano una grossa fetta di nero e quindi l'Europa ha preso le cifre ufficiali. Ma detto ciò, lei è d'accordo che se c'è una legge e che se questa legge poi prevede anche delle multe che paghiamo tutti noi, la legge vada rispettata? Posso essere d'accordo su quello che lei ha detto, non sono d'accordo con tutto il sistema che c'è stato per calcolare queste multe, perché se una legge è giusta va rispettata, ma se per calcolare le multe si utilizzano sistemi che non sono quelli che sono previsti dalla legge, allora non sono più d'accordo. Ma questo vale anche se lei parcheggia la macchina, non so, nel luogo degli handicappati, cioè se non sono d'accordo su quello che è la multa, posso non pagarla? No, no, non è così, non è così. Io le ho detto un'altra cosa, allora... Se mi dà un minuto, allora. Come no? Intanto il problema, io sentivo quello che ha detto l'allevatore che era al telefono prima, della montagna. Lei sa che a sforare in Italia sono 23.000 allevatori e non sono 650. Di questi 23.000, 8.000 aziende non hanno aderito alle rateizzazioni. Ora, non sono 600 quelli che, o 650 come dice lei, ma sono 8.000. Questi 8.000 producono quasi il 40% del latte nazionale. Quindi non siamo quattro furbetti o non siamo gli ultimi arrivati o qualcuno che non vuole rispettare le regole. Beh, l'allevatore della montagna ha detto due cose sbagliate. Una, che ha speso 650.000 euro di quote, perché le quote in montagna valgono dai 3 ai 5 euro al quintale, perché nessuno le compra, perché non si possono vendere in pianura, ma si possono vendere solo in montagna. Uno. Due, le multe della montagna l'allevatore non le ha mai pagate, perché la legge prevede che le multe della montagna vengano compensate, cioè vuol dire vengano annullate, ma la cosa buffa è che il totale delle multe nazionali non cambia, cioè il produttore di montagna che ha 100.000 euro di multa non la paga, ma la paga l'allevatore della pianura. Se secondo voi questo è giusto, io credo che non sia giusto. Diritto di replica. Ho capito benissimo, ho diritto di replica, Busetto Vicari, poi vorrei però continuare con lei, onorevole Ranieri, perché vorrei capire veramente, lei dice sono 8.000, a noi risulta molto di meno, comunque ammettiamo anche che fossero 8.000. Ce ne sono 31.000 di allevatori che rispettano le quote, e voglio capire, lo fate perché appunto ideologicamente siete contrari, ma è un po' strano come calcolo politico. Però Busetto Vicari, poi ho il traffico, lei non li ha pagati questi soldi, quindi ne ha pagati di meno? No, guardi, qui c'è un fraintendimento, o fa finta di non capire l'onorevole della Lega. Vabbè, mi dica però, parli con me. Io ho comprato questa cifra che ho detto, per un ammontare di circa 600 milioni di vecchie lire durante gli anni 90 e fino ai primissimi anni 2000, perché volevo essere in regola con la legge, perché non volevo dover sentirmi l'ufficiale giudiziario o l'emissario della GEA che venisse a chiedermi di pagare il super prelievo, perché non volevo rischiare niente. Tutta questa attenzione, diciamo, per rispetto della norma, che magari potevo anche non condividere completamente, mi ha portato un esborso di denaro che ha messo la mia azienda in difficoltà, e per varie vicissitudini che sono derivate anche dal prezzo del latte, eccetera, alla fine ho deciso di chiudere questa attività. Vorrei dire che due anni e mezzo fa, quando c'è stata la famosa manifestazione ad Arcore con i trattori, con migliaia di trattori e 3.000 o 4.000 allevatori, quelli che avevano rispettato le norme, io ho degli amici che hanno speso non 600 milioni ma 2 milioni di euro per comprare le quote latte, e non è che io sia tanto contento che l'onorevole Ranieri mi venga a dire che io sono stato, tra parentesi, forse pollo a comprare delle quote quando potevo legittimamente non comprarle, perché tanto in montagna non ho mai pagato nessuno, io comunque le ho comprate. La mattina della manifestazione c'era una troupe della RAI che girava per la manifestazione. Io ebbi la sventura di essere intervistato e dissi molto semplicemente che era un'indecenza quello che penso anche adesso, e quindi? Per il ricatto della Lega, che poi è continuato per due anni e mezzo, adesso nei confronti di Romano e prima non so di chi, perché c'era Robusti coinvolto, la banca della Lega che aveva dei problemi. Adesso arriviamo a Credi Euronaldo. Io ho subito un incendio e mi è stato bruciato il fienile il giorno dopo. e bisognerebbe che l'onorevole Ranieri dicesse se si dissocia da comportamenti che hanno portato a me a subire un incendio doloso, ad alcuni allevatori che hanno cercato di insistere per il rispetto della norma, lei li ha definiti un po' pesantemente, ma io condivido. Banditi. Banditi, quei 657. Sì, chi non rispetta la legge è un bandito. Banditi, però molti sì, perché se l'onorevole Ranieri dice che lei aveva nella sua azienda 10.000 quintali di quote e ne produceva 20.000 e ha venduto le sue quote a Filippo Gasparini, che è un allevatore suo vicino, non so a che prezzo, e adesso produce tutta la produzione dell'azienda Ranieri è fuori quota. Ecco, insomma, cavalcare una tigre come quella per poi fare segretario della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati di sicuro non becca né il mio voto né quello di tutti gli altri allevatori che hanno... Beh, ma lei l'ha mai votata la Lega? Prego? Lei l'ha mai votata la Lega? L'ho votata l'ultima volta e non lo vedranno mai più, ma non è... Ok, quelli sono fatti suoi. Non capisco perché... ma io ho qualche idea in proposito. Bosetto Vicari, ho capito, non lo capisco nemmeno io, infatti stiamo facendo puntate su puntate. Chiedo all'onorevole Ranieri un secondo di pazienza, che abbiamo il traffico, e poi la possibilità di replica chiaramente a quello che ha detto, e ancora un paio di domande che ho io. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, ultima parte di Focus Economia, di nuovo con Sebastiano Barisoni. Onorevole Fabio Ranieri, parlamentare della Lega, appunto segretario della Commissione Agricoltura, vorrei chiaramente che lei rispondesse a quello che diceva l'allevatore, ex allevatore, agricoltore Bosetto Vicari, ma vorrei anche che mi confermasse se è vero che lei ha accumulato multe con la sua azienda per sforamento delle quote latte per circa 1.700.000 euro, che è stato accusato anche di dichiarazioni fraudolente per 4 milioni di euro e che il PM milanese Frank Di Maio le ha contestato una truffa da 1 miliardo di euro. Allora, rispondo subito alla questione di Frank Di Maio. Io non mi è mai arrivato nulla e sono estraneo a quei fatti, tant'è che ho querelato i giornali che hanno pubblicato quella notizia, perché io non sono mai stato presidente delle cooperative di cui mi è stato attribuito invece appunto la presidenza. Quindi il fatto è che hanno condannato gli allevatori, io non ero tra quelli in questi giorni. Quindi quella è una balla, scusate il termine, una bugia montata da Arte perché sono un politico della Lega. Rispondo all'allevatore, ex allevatore, infatti capisco perché ex, lui non deve parlare di cose che non sa. Lui ha detto così, un incendio doloso nella sua azienda, ma non sa chi glieli ha mandati, chi sono stati, almeno credo, a meno che non li abbiano beccati e ha capito che era un allevatore Cobas che gli ha dato fuoco. Io però nella mia azienda ho avuto tutti i controlli possibili e immaginabili, ho avuto ripercussioni da parte dei sindacati con banche eccetera eccetera per farmi chiudere l'azienda. Non è vero che io avevo 10.000 quintali di quote e ne producevo 20.000, perché io avevo 7.000 quintali di quote e ne ho vendute 2.000 a Gasparini, l'unica cosa giusta è quella, semplicemente perché con tutto quello che mi hanno fatto non sapevo più come fare a mandare avanti l'azienda. Mi può solo dire una cosa, è vero che lei ha accumulato multe per lo sforamento delle quote per 1.700.000 euro e ne ha altre 4 milioni di euro di dichiarazioni fraudolente? No, non ho nessuna dichiarazione fraudolenta, ho una multa accumulata che non è quella che dice lei, ma è più bassa, ma io ho sempre lavorato e fatturato quello che diceva lei prima. Intanto noi non siamo dei delinquenti, non so come ci ha definito lei prima. Banditi. Dei banditi. Banditi saranno altri probabilmente. Ma insomma, chi non rispetta la legge in italiano è un bandito. E chi fa latte in nero cos'è allora? Allora è un assassino, perché il latte nero non è controllato, non vengono fatte le analisi, non vengono pagate le tasse sul latte, sulla fattura. Io ho fatturato. Allora è meglio fare il latte nero minacciando la salute della gente, o meglio onorevole, ma che ragionamento è meglio rispettare il rosso o parcheggiare sulle strisce dei cappati? Sono due comportamenti. No, assolutamente. Comunque mi fa fare una domanda. Lei è fazioso. Ma sì, va bene, tanto. E lei è invece lei oggettivo. Mi dica una cosa invece. Le risulta, a parte il fatto che io ritengo, ma perché sono fazioso di parte, che un parlamentare rappresentando la Repubblica Italiana deve essere il primo a non essere multato, ma questo chiudo la chiosa. Ma infatti io non sono multato perché è una relazione dei carabinieri. 1.700.000 euro. Vabbè. Mi dice solo una cosa, perché sennò se parliamo in due non ci capiamo. A lei risulta che il motivo vero per cui la Lega difende gli splafonatori è perché vi furono a suo tempo intermediazioni fittizie con le cooperative di allevatori per nascondere la truffa delle quote latte, in cui questi soldi circolavano attraverso la vostra banca, che poi fallita, la Credi Euronord, e in questo modo la Lega sostanzialmente viene ricattata da chi mise i soldi in Credito Nord e agevolò questa partita di giro. Ne ha mai sentito parlare? Assolutamente ho sentito parlare di questo, ma sono tutte balle, perché la Credito Euro Nord non ha mai avuto, e ripeto mai, e questo posso anche dimostrarlo, e voglio vedere chi riesce a dimostrare il contrario di quello che dico, rapporti con le cooperative degli agricoltori dei Cobas. Perfetto. Quindi, ed è l'ultima domanda, no, io le faccio le domande e ascolto le sue risposte, è così che funziona in democrazia. Senta, un'ultima domanda, per quello che riguarda invece il futuro, siccome noi come cittadini italiani, quindi anche lei di fatto, abbiamo pagato 3 miliardi e mezzo in questi 10 anni di multa all'Europa, manca 1,5 miliardi da pagare, 1,7 miliardi dice il suo collega di partito, senatore Fruscio. Che come, perché noi questi soldi li abbiamo già messi, allora passata la festa a Gabato lo Santo o la GEA la rimettete in piedi e vi fate ridare i soldi dagli allevatori che hanno splafonato e che sono stati multati? Noi abbiamo già pagato le multe, senatore, non è onorevole, non è che possiamo discutere con l'Europa se è giusto o sbagliata, già l'Italia queste multe le ha pagate con tutti i contribuenti, prego. Non è vero che le hanno pagate tutti i contribuenti, ma eventualmente le hanno pagate al settore agricolo, non a tutti i contribuenti, Fruscio ha detto delle stupidate, mi dispiace che sia un mio collega di partito, perché non è assolutamente vero quello che ha detto lui, e anzi c'è una dichiarazione di Fruscio di un anno fa che dice esattamente il contrario di quello che ha detto adesso, ma al di là di questo sono problemi... Quindi secondo lei non c'è stato uno scambio tra il ministro Romano e la Lega per rimuovere Fruscio? No. No, assolutamente no, ci sono le motivazioni. E questo poi non tocca a me dimostrarlo, ma chi ha nominato il commissario al posto del presidente Fruscio dovrà dimostrare il perché lo ha fatto, ma credo che qualcuno lo stia già facendo. Quello che voglio dire, non c'è stato nessuno scambio di voti, anche perché vorrei ricordare a tutti che oggi gli allevatori hanno ancora sull'azienda agricola la pendenza delle multe delle quote latte, non c'è stato nessun annullamento e non c'è stato nessun colpo di spugna, quindi non abbiamo avuto nessuno scambio con il ministro Romano, con il quale gli allevatori e contro il quale hanno fatto manifestazioni a Roma non più di qualche mese fa. Allora io ringrazio l'onorevole Fabio Ranieri per le spiegazioni che ci ha fornito, il resto dell'idea che chi gestisce la cosa pubblica debba essere come la moglie di Cesare. Grazie anche a Andrea Busetto Vicari, cioè quindi al di sopra di un sospetto, grazie anche a Andrea Busetto Vicari, a chi scrive: ma insomma parlate dei soldi spesi per le quote latte, non dei soldi spesi per l'immondizia di Napoli. Ecco, è esattamente il ragionamento del benaltrismo, quello che sta affondando il paese, sono soldi sbagliati tutti e due. Non è, ripeto, che un reato da una parte sollevi o riduca il reato dall'altra parte. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24. La passione si sente.